confrontato nell'affrontare il mio tema dall'esposizione giustamente problematica che la Maddalena ha dato alle questioni che ha affrontato, e dico giustamente problematica sia per lo stato degli studi sia anche perché questo è lo spirito di una riunione come questa, insomma, in cui si devono discutere appunto i problemi che la ricerca lascia aperti. Io poi, in modo particolare, sono costretto. C'è qualche problema? Sono costretto, come dire, ad insistere sulla problematicità della mia esposizione, perché l'argomento che devo affrontare presenta un'indubbia carenza di studi e di conoscenza, almeno io ritengo che presenti una notevole carenza che obbliga, come dire così, a formulare delle ipotesi più che non a sostenere con molta precisione delle tesi. Ecco, dentro, questa è una fortuna per chi mi ascolta, naturalmente, nel senso che sono costretto ad essere anche molto, molto contenuto. E stando così le cose, ho pensato, non ho saputo resistere alla tentazione, si potrebbe dire meglio, fornirvi in partenza alcuni dati che sono il risultato di una ricerca durata diversi anni, condotta utilizzando i dati del catasto teresiano, quindi sulla struttura fondiaria dell'ambiente che ci interessa qui, cioè la parte asciutta dello Stato di Milano, quindi tutta l'area di altopiano, di pianura asciutta, altopiano e di collina. Dati che, come dire, sono appunto il risultato di questa indagine durata alcuni anni sui dati catastali. Tanto perché voi possiate avere un'idea del significato di questi dati, vi dirò che ho qui davanti i tabulati. Devo scusarmi di una cosa, che essendo arrivati da poco tempo il grado di riflessione, diciamo così, è ancora un po' iniziale, insomma, no? Perché su queste cose bisogna riflettere a lungo. Comunque, questa indagine di cui vi do adesso qualche anticipazione, e mi sembra su aspetti che si collegano molto al discorso che ha fatto De Maddalena prima, riguardano in pratica 7.645.000 pertiche sugli 11 milioni e 400 e qualche cosa, 7 milioni e 600. Sugli 11 milioni e 400 che formavano nel 740 la superficie dello Stato di Milano. La differenza tra i 7 milioni e 600 mila e gli 11 milioni e 4 è data dalla zona di montagna che è stata esclusa ed è esclusa anche dalle nostre considerazioni che facciamo in questa sede. Comprendono invece tutta la zona di pianura irrigua e pianura asciutta, quella appunto di cui dobbiamo parlare. Ora, sostanzialmente, che cosa emerge da qualcuno di questi tabulati, di questi risultati? Purtroppo non ho la possibilità di fornire elementi su tutti gli aspetti del regime fondiario e del regime agrario, perché ripeto, siamo all'inizio, insomma, del lavoro di utilizzo dei dati stessi. Detto così, proprio per una ragione di chiarezza tecnica, noi abbiamo rilevato tutte le partite catastali, non i proprietari, nell'impossibilità di ricostruire i proprietari, tutte le partite catastali, tutta la superficie, tutta la ripartizione per culture delle superfici, tutta la ripartizione delle superfici per classi di ampiezza stabilite secondo determinati criteri che poi vi dirò, tutta la dislocazione, la consistenza, meglio, del patrimonio arboreo, il gelso, secondo le classi di ampiezza, secondo i tipi di proprietà e le classi di appartenenza per grandi categorie sociali della proprietà stessa. In altre parole, questo vorrebbe essere, io spero che lo sia, insomma, con qualche certezza, il modo per offrire agli studiosi finalmente quello che Pugliese aveva anticipato con quel suo tentativo per campionamento, no, di fornire appunto un quadro approssimativo del regime fondiario ed agrario lombardo in prima metà di Settecento. Siccome l'indagine è quella che Dalpane giustamente ha chiamato a tappeto totale, no? Non per campione, ma su tutta la superficie, con una schedatura che ci è costata anni e anni di lavoro e l'utilizzo del calcolatore per ogni ragione. Io credo, ripeto, che questi dati possono veramente offrire qualche indicazione preziosa sulla quale poi tirare le conclusioni magari anche più diverse. Ora, un primo dato interessante è quello che riguarda, direi che qui si attacca in pieno, sono i discorsi di Maddalena, riguarda la distribuzione della superficie per gruppo sociale di appartenenza del titolare della partita. I gruppi sociali, voi sapete, sono, secondo così, le consuetudini di questi lavori, sono sostanzialmente tre, quelli che consentono un'approssimazione non troppo discutibile: nobiltà, proprietà nobiliare, proprietà ecclesiastica, non del proprietario ecclesiastico come tale, ma dell'ente ecclesiastico; altri, cioè i borghesi, ma è una definizione questa che io non accetterei in questa fase, direi altri, per dire non nobili, non nobili e non ecclesiastici. Beh, e poi, come dire, tutta un'altra serie di tipi di proprietari che vi risparmio, perché dovranno essere raggruppati, vanno dagli incerti alle comproprietà miste, ai legati, ai fedecommessi, agli ordini professionali, alle comunità. Questa è forse la più rilevante dopo le tre che ho indicato, e poi gli ordini caritativi, gli ordini religiosi, minori e maggiori. Che cosa dice qui la rilevazione totale per le tre zone di collina? Alta collina prealpina, media collina prealpina, bassa collina. Purtroppo non ho i tabulati per la zona, come di alta pianura asciutta, l'alta pianura asciutta. L'ho soltanto per una parte, insomma, e quindi preferisco non confondere le idee e stare sulla parte di collina. Ecco, i dati secondo me sono estremamente interessanti perché indicano, e qui chiedo scusa, credo senza dubbi, insomma, senza incertezze, perché su queste cose qui è un po' difficile. Sì, c'è qualche sbaglio di classificazione, però non tale da alterare i dati che vi sto dando. Beh, noi abbiamo questa situazione: nobili, ecclesiastici, borghesi, per intenderci. Mediamente la proprietà nobiliare oscilla tra il 18 e il 25%, la proprietà ecclesiastica non supera, se non rarissimamente, il 2%, quindi sta tra il 2 e il 3%, tutto il resto è proprietà borghese. Andiamo dal 70 all'80% di proprietà borghese. Naturalmente con delle variazioni, tra l'altra la media e la bassa, poi vi dirò quali sono le tendenze di questa, le tendenze di questo andamento tra le tre fondamentali categorie. Ecco, nell'alta pianura asciutta, ecco, ho detto che non confondevo, ma forse la curiosità può portare, ho il dato. Nell'alta pianura asciutta noi abbiamo percentuali di questo tipo: 13,9-14%. 13,14%? Sì, 13,97%, quindi il 14% di proprietà nobiliare, 2,68% di proprietà ecclesiastica, quindi restiamo sul 54% di proprietà borghese. Il resto si divide tra le categorie miste, sulle quali mi riservo un'ulteriore precisazione perché può dar luogo a cose, come dire, contraddittorie. Qui un dato emerge chiarissimo, insomma, è una conferma, naturalmente non sto inventando niente, ma è una conferma di massima sicurezza intorno a dati che più o meno conosciamo. Un altro come dire, punto importante, ho qui qualche rilievo, qualche dato intorno alla, come dire, alla distribuzione della proprietà congiuntamente incrociata tra categorie sociali, quelle di prima sostanzialmente, aggiungendo anche le comunità e le classi di ampiezza, che qui è fin troppo evidente che un conto è possedere una proprietà di un quarto di ettaro e un conto è possedere una proprietà di sopra di 200 ettari, insomma, no? Noi abbiamo stabilito queste categorie fino a un quarto, da un quarto a due ettari, da 2 a 5, da 5 a 10, da 10 a 40, da 40 a 200 e oltre i 200 ettari, classificando come tale la grande proprietà dai 200 in su. Ora qui cosa viene fuori? Viene fuori pure una cosa estremamente interessante. Intanto viene fuori il frazionamento piuttosto esteso, no? Piuttosto esteso, man mano che dalla pianura si passa alla bassa collina, media collina, alta collina. Ma io devo dire, sì, ma questa è una colpa mia, dico stranamente perché mi ha colpito questo, voglio sentire anche il vostro parere. Qui risulta che la distribuzione per classi sociali e per classi di ampiezza non va nel senso che invece si conferma nella parte di pianura e poi nella parte irregua. Per cui chi possiede la terra migliore, voglio dire la nobiltà, possiede anche in termini di valore capitale, possiede anche le classi di ampiezza maggiore. Qui invece la distribuzione indica che la nobiltà ha in modo crescente dall'alto verso, in modo crescente dal basso verso l'alto, e la nobiltà ha un 19-20% di proprietà nelle classi di ampiezza più piccole, e gli altri, la proprietà ecclesiastica è rilevante, voglio dire, in tutte le classi di ampiezza. E questo, vabbè, questo è spiegabilissimo, perché nella rilevanza generale c'è anche un'irrilevanza per classi di ampiezza. E invece la rilevanza del proprietario borghese è forte tanto nelle piccole classi di ampiezza, sul piccolo podere, come nel medio podere. Nel grande podere, nella grande unità, scompare sia la nobiltà come il borghese e compare la comunità. Cioè il grande proprietario è la comunità. Quindi è una fisionomia, come dire, un po' particolare, di cui bisogna tener conto anche per le evoluzioni successive. Qualche cosa però di un po' incerto. No, altro. Sì, tu. No, vorrei chiedere un momento, cosa intendi per comunità? Intendo la proprietà collettiva della comunità, la proprietà pubblica, di uso collettivo, la proprietà pubblica di uso collettivo della comunità. Noi abbiamo messo sotto questo titolo la proprietà che è in testa alla comunità locale. Ma anche assistenziali? No. No. Escludendo monasteri, vi cito, ecco, allora forse può essere utile citare gli altri tipi, certo. Escludendo Camera Regia, poveri sono gli enti assistenziali in senso stretto, ospedali, ordini religiosi, confraternite, abbazie, seminari, mense vescovili, benefici, collegi e scuole. Quindi le comunità sono quindi gli enti pubblici? Sono gli enti pubblici, è la comunità, il comune, chiedo scusa. Sono i beni comunali? Sono i beni comunali, i beni comunali, perfetto. Sì, era il modo più semplice per definire il tutto. Ecco, qualche dato, dicevo, meno sul quale vorrei riflettere di più, insomma, è quello che riguarda la distribuzione della superficie, sempre nell'alta collina, media collina e bassa collina, per tipi di culture. Io qui temo forse di aver esagerato dal punto di vista analitico, per cui adesso ho qualche problema di raggruppamento, perché abbiamo lasciato disaggregate le culture sulla base di 36 tipi di culture, il che vuol dire adesso passare ad aggregazioni, insomma, che non saranno facili ambiente per ambiente. Per la zona che stiamo considerando, però, il dato direi è abbastanza tranquillo, perché cominciando dalla zona vicino alla montagna e scendendo verso la pianura, si vede che la presenza del bosco passa da un 24 a un 18 a un 10%, inversamente aumenta l'aratorio, che sono 24, 18 e 10, no? Cominciando dall'alta, media, bassa collina. Inversamente si comporta l'aratorio, cioè l'aratorio è meno rilevante nell'alta e aumenta nella bassa, 8, 29, 31. Sono le due culture predominanti. C'è una terza cultura che si fa strada man mano che ci si avvicina alla pianura, ed è l'aratorio vitato, cioè l'aratorio commista la cultura della vite. Avrei voluto... Su questo non si sa i dati. Boh, se vuoi, sì, tento rapidissimamente, giusto, tento rapidissimamente. Alta collina 15 e 6, media collina 11 e 9, bassa collina 21 e 5. Questi sono i dati relativi all'aratorio misto, in modo particolare all'aratorio vitato. Avrei voluto darvi anche qualche elemento intorno al patrimonio gelsicolo, che è di enorme rilievo. Però vi chiedo scusa, ma riflettendoci sopra, qui c'è ancora un po' di confusione, vorrei, perché ho tutti i dati sia per zone agrarie, come per classi di ampiezza dei poderi, come per attribuzione di gruppo sociale proprietario del gelo. Così ad occhio si conferma una cosa che sapevamo, cioè che non solo le terre migliori, ma anche le terre maggiormente dotate di patrimonio arboreo sono di proprietà borghese, insomma, no? Come quella che ha destinato investimenti, ovviamente, all'arricchimento del fondo in questo modo. Io credo di poter tirar fuori da questi dati provvisori, nel senso che non sono tutti quelli che avrei voluto dare rispetto ad un quadro generale, ma definitivi per quel tanto che gli ho citati, di tirar fuori questi elementi, insomma, caratterizzanti l'area di collina di cui sto parlando. E ripeto cose già dette: alta presenza nel complesso di proprietà borghese, che indubbiamente è il risultato di quell'evoluzione di cui si è già parlato De Maddalena. Alta presenza, quasi nulla la proprietà ecclesiastica, poco rilevante la proprietà nobiliare. Decrescente presenza dalla montagna verso la pianura, comunque della proprietà borghese, ma di poco. Equilibrata presenza della proprietà borghese in tutte le classi di ampiezza, no, del podere, ed esistenza rilevante, ma questo non è, di proprietà comune, no, di proprietà comune che successivamente, cioè in seconda metà di Settecento, perché questi dati si riferiscono al secondo decennio del Settecento, in seconda metà del Settecento passeranno ulteriormente attraverso la vendita e il collocamento in mano privata nelle mani della Bruyère. Questi sono i dati della prima rilevazione catastale, quindi sono del 723-24. Il 40 è il dato relativo alla superficie complessiva fornita dal sommarissimo, che raccoglie poi tutti questi dati, ma gli 11 milioni e 600 mila aperti che sono quelli del sommarissimo, il Mutoni parla di 11 milioni e 400 qualche cosa, quindi sono così variazioni poche. Era per stabilire il rapporto tra la superficie complessiva e quella analizzata nell'insieme. Questi sono i dati, ripeto così, qualcuno dei dati che si possono ricavare da questa indagine e che confermano l'esistenza di un regime fondiario che è il risultato di un'evoluzione di cui abbiamo sentito, come dire, i fattori, abbiamo compreso le logiche interne. Devo dire che c'è un altro elemento che secondo me, insieme al regime fondiario, è fondamentale per capire il sistema agricolo ed economico dell'area asciutta, e sul quale invece non posso dire quasi niente per carenza di studi, ed è quello relativo alla popolazione, e in modo particolare alla densità della popolazione. Io posso soltanto far riferimento a quello che tutti sappiamo, e quello che tutti sappiamo, collocato cronologicamente nello stesso periodo, sono i dati forniti dal Pugliese, confermati poi negli studi di Cattaneo, ma ulteriormente successivi, che però ci dicono una cosa che anche questa, credo, al di là così delle variazioni, è incontrovertibile, cioè la forte densità, l'eccezionale densità di popolazione. Dice il Pugliese, pagina 64 del notissimo lavoro, sembra che la massima agglomerazione, anche lui usa, perché insomma vuole star cauto, ma sembra che la massima agglomerazione si verificasse nella zona dell'altopiano, ove era anche maggiore la densità della popolazione a strazione fatta dai nuclei cittadini. Ivi il numero medio di abitanti per comunità è di 619 persone, mentre è di 307 nella comunità montane del Ducato e della Contea di Como, di 397 nelle colline e di 486 nella pianura asciutta. Naturalmente questi 86 nella pianura asciutta. Sono valori elevatissimi, no? Sono valori elevatissimi che spiegano anche, come dire, l'agglomerato di tipo borgo, piccolo borgo, medio borgo, che è una caratteristica dell'ambiente. Ora, se si può accettare, come io ritengo di poter accettare, che questi sono un po' polarizzati, i due elementi che caratterizzano dal periodo precedente l'ambiente, quindi un certo tipo di frazionamento della proprietà nelle mani soprattutto dei borghesi, e la forte densità nel contado e non solo nel contado, emergono secondo me quelli che sono i caratteri basici, proprio fondamentali del sistema agrario ed economico dell'area asciutta. Quali sono questi caratteri? Sono sostanzialmente tre. Primo, la terra ha una destinazione culturale prevalentemente in funzione alimentare, cioè tra l'altro non riuscendo mai a raggiungere la sufficienza, è tipica la condizione di dipendenza di queste terre, no? Per sopravvivere, cioè la produzione dei cereali fondamentali non è mai sufficiente, quindi deve essere continuamente utilizzato un'importazione soprattutto di grani. Questo però non esclude, anzi conferma, questa destinazione di base, diciamo, della terra, che è prevalentemente alimentare, cioè rivolta alle esigenze dell'autoconsumo. Una seconda caratteristica che ne scaturisce, non so, da questa prima, è la predominante e permanente insufficienza del pascolo, quindi dell'allevamento, e quindi della possibilità... permanente insufficienza del pascolo, quindi della superficie che possa essere destinata all'allevamento, con tutte le conseguenze negative dal punto di vista della mancata concimazione della terra, ma soprattutto dal punto di vista dell'impossibilità di ricorrere a quel formidabile sostegno che rappresentava per il lavoro contadino, per il lavoro della terra, dell'impiego dell'animale, insomma, no? E del bestiame grosso. Vedremo che qui di fatti la caratteristica è il lavoro della vanga, è un'agricoltura di vanga che è tipica, quindi anche dei bassi rendimenti unitari di questo ambiente. Una terza caratteristica che, come dire, esce un momento dalla pura valutazione dei caratteri agrari e investe, come dire, l'economia generale dell'ambiente, è la necessità, dato il tipo di sfruttamento della terra, data la densità di popolazione, la necessità di mantenere vive forme di impiego alternativo del lavoro. La sopravvivenza manifatturiera e poi... l'esistenza, no, di attività di trasformazione, soprattutto nel settore tessile, si lega qui indubbiamente a queste caratteristiche. Devo dire, e richiamo qui il parere autorevolissimo dal mio punto di vista di Sella a Milano, in quel convegno che avemmo al Castello sotto la guida di De Maddalena, provocato da una domanda di Poni, che non era molto relativo, come dire, all'argomento, ma era comunque interessante. Sella precisò questo suo convincimento, che io credo accettabilissimo, che questa, cioè della questa dell'asciutto, l'altopiano e la collina, è l'area, come dire, di congelamento, almeno in una certa fase, e poi sarà di sviluppo, delle attività manifatturiere, tessili in modo particolare. Però qui credo di poter aggiungere all'interpretazione tradizionale, che vede quest'area ricca di attività manifatturiere in quanto esse si trasferiscono dalla città, di poter aggiungere quest'altro elemento, che esse si trasferiscono dalla città anche perché ci sono localmente queste necessità, come dire, di attività integrative. Come sempre, i fenomeni economici non si spiegano mai da una parte sola, ma si spiegano nel contesto generale, insomma. È possibile il trasferimento dalla città alla campagna della manifattura perché la campagna è recettiva, insomma. No, tanto è vero che la parte irrigua non è per niente recettiva di tutto questo, perché ha altri tipi di impiego ed ha un'altra struttura. Questi sarebbero quindi, sulla base di quei due elementi, ripeto, i caratteri che ne derivano del sistema agrario ed economico di tutta l'area asciutta. Se questo è vero, in via ipotetica, diciamo pure come ipotesi di lavoro, in parte suffragata da alcuni dati e in parte da confermare, insomma, da approfondire, e ne emergono alcuni, come dire, caratteri dell'evoluzione che l'ambiente ha, direi in seconda metà di 600, in prima metà e in seconda metà di 700. Qui sto molto sull'ipotetico, anche se io personalmente andrei anche un po' più in là, insomma, all'attivo, come dire, per sostenere certi ripensamenti, certe convinzioni o un mio lavoretto sulla Brianza. Ecco, ma questo lavoro sulla Brianza che quindi è una zona, è un'area entro l'area dell'asciutto. Fino a questo momento, come dire, non c'è stato un ampliamento degli studi, un arricchimento degli studi, quindi mi permetto di far riferimento a questo, naturalmente con tutti gli aggiustamenti che si renderanno necessari e che sono auspicati. Ora, io vedo questi caratteri dell'evoluzione dell'ambiente, questo suo evolversi per queste linee. Beh, intanto un progressivo spezzettamento fondiario, no? Anche qui il progressivo spezzettamento fondiario è legato alla pressione demografica, no? È legato alla pressione demografica, è legato anche al rendersi disponibile di nuova superficie. Si pensi per esempio alla brughiera, che viene utilizzata in forme diverse di quelle precedenti, cioè come semplice supporto di un certo tipo di sfruttamento della terra. Comunque questo progressivo spezzettamento è nei fatti, lo si constata poi agli inizi dell'Ottocento, è il risultato ultimo, no, di questa evoluzione cominciata molto tempo prima. Connesso allo spezzettamento fondiario, quello che io mi permetto di ritenere un po' il cardine poi dell'evoluzione e dell'aumento anche di certe risorse che l'ambiente è in grado di dare, cioè la trasformazione del rapporto contrattuale. Qui naturalmente ognuno è portato a vedere le cose, io forse esagerando, perché con occhio attento non solo alla realtà economica ma anche a quella sociale, ho visto questa trasformazione carica poi di un insieme di conseguenze sulle condizioni di vita delle popolazioni contadine. Però non c'è dubbio che l'evoluzione dalla mezzadria, realizzata nella forma della grande unità produttiva, che si spezzetta, con la conduzione a massaro, con la grande unità familiare, patriarcale, retta dal reggitore, verso la forma del contratto misto, di mezzadria per le culture arboree e di affitto a grano per una parte del seminativo, sembra essere, in primo luogo, in modo indiscutibile, come dire, la conseguenza, l'analogo e nello stesso tempo la conseguenza dello spezzettamento fondiario, perché lo spezzettamento fondiario porta a creare unità produttive più piccole, l'unità produttiva più piccola rompe il tipo di rapporto che si reggeva sul rapporto mezzadrile, sia pur di tipo specifico a massaro di queste zone. Non a caso noi troviamo ancora in fine Settecento e addirittura in prima metà dell'Ottocento, io le ho trovate attraverso l'inchiesta dell'840 su tutti i rapporti contrattuali della Lombardia, ho trovato in questa zona ancora la presenza della mezzadria, ma dove? Nei terreni e nei poderi che restano di una certa dimensione, perché marginale, cioè di minore importanza dal punto di vista economico, laddove invece la terra di maggior rilievo economico è oramai spezzettata in piccole unità poderali, in piccole unità di proprietà, in piccole unità di conduzione, con il contratto misto, il contratto di mezzadria è sparito. Conseguentemente ancora, ed è legato questo alla trasformazione del contratto, alla grande famiglia del massaro si sostituisce l'unità colonica più ristretta e con un rilievo negativo indubbiamente, insomma. Oramai qui tutto lo sfruttamento è condotto con un'agricoltura da vanga, perché la mancanza di bestiame, la piccola unità, obbliga a lavorare la terra con la vanga, insomma. E non più con l'aratro e non ricorrendo, come dire, a strumenti che potrebbero indubbiamente dare un miglior utilizzo. Il lavoro della vanga, l'agricoltura della vanga è quella dimensione della famiglia colonica. La famiglia colonica è a dimensione del podere, se si parte dal podere si arriva alla famiglia, dalla famiglia colonica, dalla piccola unità si arriva al lavoro con la vanga. E quindi ultima conseguenza negativa di questa trasformazione del regime agrario, la stabilità assoluta delle tecniche e dei metodi. No? Se c'è qualche motivo, come dire, qualche fattore di trasformazione e di evoluzione, secondo me bisogna andare a pescarlo, come dire, nella intensificazione, non nella modificazione dei metodi e delle tecniche. L'inerzia tecnologica, chiamiamola così. Per l'agricoltura vuol dire il restare ancorati ad alcuni metodi, le rotazioni, le tecniche fondamentali di sfruttamento della terra, sia nel seminativo come nell'arboreo. Ecco, direi che un terzo filone da seguire nell'evoluzione dell'ambiente è questo, quel rapporto che caratterizzava il sistema agrario ed economico generale dell'asciutto, quel rapporto integrativo tra lavoro agricolo e lavoro manifatturiero, si modifica, nel senso che l'attività manifatturiera, lo sviluppo del setificio qui è chiarissimo, cioè, l'attività manifatturiera si fa in qualche modo lei, vuol dire sollecitante, si fa sollecitante. Cioè mentre prima, io credo di poter dire, naturalmente questo fa parte delle cose da discutere, che il rapporto tra attività manifatturiera e attività agricola è veramente uno integrativo dell'altro, no? Si pensi alle condizioni di vita e di lavoro, per esempio, delle popolazioni delle zone cotoniere, fino a tutto 600 e parte del 700, la lavorazione del coltellaio domestico nelle zone di Busto, parlo di tutta l'area lungo Olona-Ticino, insomma, no? Qui il lavoro è lavoro integrativo di un certo tipo di reddito agricolo. Questo adesso si sposta man mano che ci avviciniamo al 700 e certamente il 700. Lo sviluppo del setificio, già insediato, già esistente perché non si crea, ma potenziato, che può disporre in modo crescente di materia prima locale. La materia prima locale che discende dall'estensione del gelso, dall'estensione dell'allevamento gelso-bachicolo, che mette immediatamente a disposizione del trasformatore la materia prima. E quindi questo è un fatto evolutivo, no? Non è più una reciproca compensazione, ma è un fattore che gioca sull'altro, è un settore che gioca sull'altro. Anche qui qualche rilevazione, ma non vorrei, per esempio, sul numero dei mulini da sesta, no, non lascia dubbi, insomma. Questo era bene, cioè, c'è una moltiplicazione da 3 a 4 volte, sempre nelle stesse aree, del numero dei mulini impiegati, tra 600, quelli che ho citato, che sono i pochi, tra 679 la rilevazione e 749, no? Un aumento che comunque lo si interpreti ha un riscontro preciso nell'aumento della produzione, insomma, no? Per cui non ci sono dubbi in questa direzione. Un altro elemento, se vogliamo un altro filone dell'evoluzione, quello che Romani, secondo me, giustamente ha considerato il motore dell'evoluzione poi di tutto l'ambiente economico lombardo, è che qui, voglio dire nell'asciutto, i caratteri assunti dal sistema agrario ed economico nel suo insieme, i mutamenti che ho indicato fino a questo momento e che toccano sostanzialmente il regime fondiario e il regime agrario, spezzettamento, tipo di contratto nuovo, no? Mutamento del rapporto tra attività agricole ed attività industriale, che cosa creano? Creano una situazione di elasticità, di adattamento di tutto l'apparato produttivo alla domanda, che è il punto fondamentale delle nostre ricostruzioni in 700. Che cos'è che funziona? Molto bene. Il tiraggio dalla domanda di alcuni prodotti, la capacità nell'irriguo, e questa è una cosa che non tocco qui, dell'azienda di tipo capitalistico di aumentare certi tipi di produzione, la produzione del riso, la produzione del formaggio per la domanda. Nell'asciutto non c'è il riso, non c'è il formaggio, c'è la setta. La capacità in un modo peculiare tutto suo del sistema agricolo dell'asciutto di adattarsi alla domanda, utilizzando, come vedremo adesso rapidamente, alcuni meccanismi che consentono questo adattamento. Quindi forte possibilità di operare del fattore domanda, quindi del mercato e della sete in particolare. Che cos'è che consente questo rapido adattamento, questo adattamento, forse rapido sarebbe meglio dimenticarlo per un momento, relativamente rapido adattamento. Ecco, io ho detto prima, secondo me è il contratto mainstream. È il contratto misto che permette alla proprietà borghese di agire pesantemente sul lavoro colonico e di ottenere, mediante la manovra del contratto, un quantitativo crescente di setta, un quantitativo crescente di prodotti di materia prima che deriva dall'allevamento, dall'attività gelso-bachicola. Su come funziona il meccanismo non faccio che ripetermi, perché sono cose che Romani chiarisce molto bene nel lavoro sull'agricoltura nel periodo delle riforme, che poi si è riconfermato attraverso indagini che io stesso ho fatto per la Brianza, Moioli ha completato per la parte soprattutto fuori dallo Stato, ma di area agricola, come dire, omogenea, no? sempre asciutta. Cioè, in pratica, che cosa avviene? Avviene che questo contratto consente al proprietario, quel proprietario, come dicevi bene tu, non vede la terra, ma vede la terra come occasione di investimento e quindi pretende dalla terra una rendita che sia la più ampia possibile, perché ha investito e vuole ricavarne certi risultati. Questo contratto gli consente, abbiamo presente com'era congegnato, mezzadria, divisione a metà del prodotto per l'arboreo, quindi sostanzialmente per la foglia e per il risultato ultimo dell'allevamento, il bortolo. Canone d'affitto fissato all'inizio dell'anno per quello che riguarda il grano in natura, no, enorme possibilità per il proprietario di incidere aumentando. No, non, purtroppo sentiamo Zarin, ecco, perché io su questo forse ho qualche dubbio. E dicevo, possibilità quindi di incidere sulla parte di canone per indurre il contadino a produrre il più possibile dall'altra parte, cioè la parte che poi al momento del conto economico permetteva di equilibrare lo stesso. Credo che non ci sia più niente da aggiungere oramai su questo punto qui, perché il meccanismo è di una chiarezza, chiedo scusa, tra l'altro ha funzionato fino alla vigilia della Prima Guerra Mondiale. Quando il rapporto contrattuale riesce a superare alcuni secoli e a tener duro, vuol dire che qualcosa di buono dal punto di vista di chi ha in mano, come dire, il pallino, di chi ha in mano la leva, insomma, di chi ha in mano quindi, di chi ha il massimo di potere contrattuale, in questo caso il proprietario, vuol dire che l'obiettivo attraverso il contratto può essere raggiunto. E tutti sappiamo che poi in inizio di Novecento il contratto salta perché l'intensificazione industriale crea delle alternative per cui il colono non sta più al gioco, solo per questo. E se questo non fosse accaduto, probabilmente ce lo saremmo trovato anche successivamente. Ora, il meccanismo contrattuale funziona molto bene, questo meccanismo misto. Il proprietario riesce a giocare continuamente sul canone in natura di grano e riesce ad indurre, attraverso la compartecipazione, il colono a dare il massimo di energia all'allevamento del bacco da seta. L'allevamento del bacco da seta ha quel magnifico sbocco locale che è il setificio e la trattura, poco investimento, pochi capitali investiti, molta manodopera a basso costo perché è abbondante, possibilità quindi di mettere in commercio, di collocare sul mercato la materia, il semilavorato, appunto la seta tratta. Tutto questo però, io ripeto, sarà un punto di vista forse deformato, ha il suo fondamento nel tipo di sistema agricolo. Senza quel tipo di sistema agricolo, risultati di questa natura non sarebbero stati possibili. Prego, così ne approfitto per... Cioè lei chiede se la quota... Dunque, per quel che se ne sa, aumenta. Cioè il proprietario riesce a crescere il quantitativo di grano. Ecco, c'è un limite in questo, che bisogna dirlo. Il limite è... Oppure potrebbe fare pensare ad una diminuzione di consumo o ad un'integrazione dei consumi. Consumo col mais. Ecco, partiamo da questo presupposto. La superficie è questa. Se il proprietario pretende un certo canone in grano, vuol dire che solo una parte della superficie va messa a grano, lasciando l'altra parte a tutti gli altri prodotti. In effetti, se si vedono alcune memorie, proprio, gli agronomi hanno esplicitato questo senza nessuna preoccupazione o scrupolo. Il proprietario deve preoccuparsi dell'equilibrio tra grano e grano turco, nel senso che deve lasciare tanta superficie al grano turco quanto è consentito per la sopravvivenza del contadino, perché il contadino abbia quel tanto, come dire, di disponibilità alimentare che gli consente di mantenere il bilancio energetico, come dire, tra quel che entra e quel che esce in pareggio, perché è chiaro che se va sotto non lavora più. Tolto questo, il proprietario quindi è più abile o meno abile a seconda di quanto riesce ad espandere, ma non oltre un certo punto, il canone in natura, che vuole essere pagato solo in grano, e non in grano turco, in grano come prodotto, come dire, più facilmente collocabile e di maggior valore. Lascia tutto il resto al colono. Questo creerà, tra l'altro, un conflitto, e volevo dirlo più avanti, ma lo anticipo, il conflitto, due ordini di conflitto, di tensione. La tensione grano-grano turco, tra le due superfici, perché è chiaro che nella misura in cui si estendeva la superficie a grano diminuiva quella a grano turbo e viceversa. E la tensione tra superficie a seminativo e ad arboreo, perché quando il proprietario induce il colono a tollerare come dire, una piantagione di gelsi, perché i gelsi danno poi la foglia dà la possibilità di allevamento e al colono questo va molto bene perché gli integra il bilancio, il colono però sa molto bene che il gelso gli porta via superficie, perché il gelso fa ombra, il gelso diminuisce la produttività, il gelso è quella cosa che se dà un certo risultato non ne dà un'altra, insomma. Però io praticamente quindi con questa domanda avrei quasi finito, ho finito. La risultante di tutto questo cosa finisce per essere? Finisce per essere un'agricoltura, un sistema agricolo, come dire, bloccato nelle sue possibilità di crescita. Questa è anche la visione poi cataneana precisa. L'asciutto non progredisce. L'asciutto non può progredire. L'asciutto non può progredire perché ha raggiunto praticamente, la raggiunge intorno alla metà dell'Ottocento, forse ancora prima, nel 40 è arrivata al massimo. Oramai l'equilibrio tra gelso, grano turco e grano non può più essere superato. Ci sarebbe un modo per superarlo, modificare le tecniche, un po' avere il concime artificiale, non il concime naturale, perché il concime naturale ha bisogno di prato, perché il prato dal bestiame e della concatenazione è molto precisa. Quindi è un sistema che nelle sue tecniche è decisamente chiuso, insomma. Le tecniche, come dire, che sono connesse al calcolo della proprietà, che sono legate alla visione della proprietà. Però non dimentichiamo una cosa, la proprietà non ha motivo per modificare niente qui, finché il prezzo della seta va bene. Con i 50 comincerà a riflettere su queste cose, quando verrà la crisi, e poi successivamente, dopo quando viene la crisi generale, in crisi agraria e più avanti ancora. Ma finché le cose, questa è la prima risultata, finché le cose vanno così, la proprietà non ha problemi, perché lucra molto bene dal punto di vista del collocamento della seta, e anche il colono tutto sommato riesce con la parte che gli spetta a compensare il bilancio che è sempre in deficit. Io chiuderei ricordando un ultimo punto, insomma, che secondo me è abbastanza importante nella difficoltà di documentare in termini aziendali, per esempio, tutta questa realtà. Dico difficoltà per non dire impossibilità, perché se ne rirrigo il discorso è relativamente facile in presenza di un imprenditore che tiene una documentazione contabile, che ha un rapporto con una proprietà. Qui il discorso è tremendamente più complicato, perché la documentazione del rapporto colonico tra proprietario e colono è molto scadente, molto praticamente è quasi inesistente. Quindi se vogliamo andare a questi tipi di documentazione per verificare queste cose, probabilmente ci troviamo in grosse difficoltà. Però io vedo un dato sintetico, insomma, che racchiude tutto questo, e sono le condizioni di vita dei contadini. Non c'è dubbio che questo è un ambiente in cui tutto l'edificio che ho descritto, se molto sinteticamente, ha il suo dato sintetico nel modo di vivere, nelle malattie molto diffuse, nella pellagra continuamente incombente e che in qualche momento diventa un fatto che si generalizza ed esplode in un mondo contadino che è, per usare un'espressione che può sembrare così, molto arretrato, molto chiuso, perché è legato a ritmi di vita, a ritmi di produzione che sono statici, che sono fermi da molto tempo. Io non so se mi dispiace che sono poco disponibile per colpa mia, ma se ci mettiamo a discutere subito forse alcune delle cose dette possiamo riprenderle subito. Ecco, avrei, utilizzando in parte, non come avrei voluto, insomma, questi risultati di ricerca, ecco, avrei così delineato quelli che sono alcuni caratteri del sistema agricolo ed economico nell'area asciutta. Poi sospendiamo ai 3/4 allora e ricominciamo alle 3 però precise, cioè 3:30, potevo dire 2:30, ma insomma. Ecco, alle 3 precise incomincia la relazione di Chittorini. modo da concludere i lavori dopo un'altra ora di discussione verso le 5, no? Non so, modo, questo è il costume. Chiesto la parola lo stesso Chittolini. Grazie, ma non vorrei prevaricare se ci sono altri. No, ma ci saranno, non credo. Sì, ci saranno. Va benissimo. Io chiedevo alcune cose al professor Zaninelli, cioè in che misura lui ritiene che questo quadro che ha dato è riflette un'evoluzione rispetto al periodo precedente. Il mio problema, il problema che ci si pone è proprio questo: quando si ha una rilevazione come quella di un catasto, che cosa rappresenta in un trend, in un ciclo? Ecco, alcune cose sono riuscite chiare, mi sono anche piaciute, per esempio quando ha detto attività manifatturiera che da subordinata, da quel che ho capito, a un'attività diventa sollecitata, questo è determinante, cambiano veramente le cose. Altre cose vorrei capire meglio, per esempio questa proprietà borghese, si hanno indizi per capire quando si definisce in queste proporzioni, che tra parentesi secondo me è altissima, cioè io sono rimasto molto stupito di questi dati e volevo appunto chiedere a questo riguardo un'altra cosa tecnica più specifica. Cosa si intende per borghesi e per non nobili? Cioè, per esempio, i cives, tutelati dal privilegium civilitatis per quel che vale nel 700, ma vale di più nel 600, dove sono? Perché se sono nei borghesi, sono borghesi di serie A, insomma, adesso non lo so, ecco. Ecco, un'altra cosa poi, molto rapidamente cerco. Io mi sto chiedendo per l'irriguo, a che cosa serve in funzione di quel decollo, diciamo, verso forme di economia più moderna, industriale, di cui parlava il professor De Maddalena, a cosa serve l'attività agricola? E io per l'irriguo non riesco bene a vedere il nesso fra questo sistema irriguo e quello che succede dopo, che è cosa tutto diversa da un'attività agricola. Per l'asciutto mi è molto piaciuto sentire la possibilità di stabilire un nesso più preciso. Ecco, anche se mi sembra tutto quello che fa l'agricoltura asciutta, e questa è una domanda che riguarda anche il professor De Maddalena, è come dire predisporsi a una domanda esogena che viene dall'esterno, cioè va bene l'anima rurale della crescita lombarda, ma non dimentichiamo che le carte si giocano non nell'agricoltura ma fuori, insomma. Questa è una domanda così, detto molto, magari potrei... Fuori vuol dire una su domanda, come dire, che è esterna all'ambiente. Attraverso la seta o comunque, certo, cioè certo. Me lo sto chiedendo, ecco, perché anch'io trovo questo, c'è questo meccanismo ben impiantato, sembra pronto lì, a un certo punto reagisce, ma magari era già pronto anche prima, insomma. Ultima cosa, l'importanza che lei ha dato ai contratti agrari, è un po' la stessa domanda, cioè... Non è che anche questo tipo di contratti potesse esserci prima e diventa così strangolante proprio perché si muovono delle cose che stanno però fuori del mondo agricolo. Le condizioni di vita dei contadini, questa è una cosa di cui capita di parlare talvolta con Della Peruta, ma si riesce a misurare se stanno peggio o meglio da un certo punto in poi? Io ho qualche dubbio che nel 600 morissero meno che nel 700 o stessero peggio. Si può stabilire una linea di evoluzione per assumere poi diciamo l'indicatore condizione di vita dei contadini come significativo di un trend di sviluppo? Come funziona? Scusa, raccogliamo un po' di non so, come preferite. No, io andrei avanti due volte lì. Facciamo prima risposta. Come facciamo un primo giro di 3-4 interventi. Sì, no? Sì. Allora il professore Andrea e il professor Bello. Io non ho scritto la domanda che mi ha fatto, adesso la sono dimenticata. Una due domande. Una cosa di Maddalena, ma è forse marginale. Quando diceva i due dati di francofilo e ispanofilo all'inizio del 500. Ci sono a Milano, mi interessa per Genova, siccome ci sono a Genova, volevo chiedersi a Milano, ma questi partiti corrispondono a due centri diversi, si sono fatti di due partiti. questo è l'arginare rispetto al film questo quello del la domanda, la seconda domanda invece, quella, cioè, è un po' la professor Maddalena alla luce di quello che ha detto il professor Berni. Questi investimenti che vengono fatti nell'eterno da parte dei, del patriziato milanese, dei ricchi milanesi, dice che il professor Maddalena portano il imprenditoriale nelle campagne. Sono fatti non per come bene diffuso, ma nelle aziende altre. Poi il professor Dardini ha detto che tutto questo ha portato allo spezzettamento dell'impresa, al contratto che fosse più arretrato di quello di prima, all'agricoltura della banca. Ecco, questo spirito imprenditoriale ha portato a una situazione abbastanza statica e abbastanza poco felice. Nella proprietà pubblica, allora lo spirito imprenditoriale è governato. Ecco, dico questo perché penso a una situazione certa, completamente diversa, è quella, insomma, completamente diversa. Però sta di fatto che anche i genovesi investono abbastanza in terra all'inizio del 600, non certo in Liguria dove la terra non esiste praticamente, ma nel mezzogiorno in maniera abbastanza costruita e poi un po' nel Piemonte. Ora, ma soprattutto nel mezzogiorno. Nel meridione investono in terre perché cessa l'alta redditività degli altri tipi di investimento, quelli finanziari a quali erano abituati, che continuano naturalmente a fare, insomma in proporzione crescono gli investimenti terre. Non è né un sono d'accordo, non è tanto un bene rifugio, non è il solo per nobilitarsi anche quello un po' ci gioca, ma è soprattutto un po' una scelta obbligata, perché diminuendo le altre occasioni di investimento, essendo meno appetibili le altre occasioni di investimento, finiscono per investire. Investono da imprenditori, ma da imprenditori molto meno brillanti di quello che fossero come imprenditori finanziari. E quindi non provoca questo loro investimento, non provoca certo lo sviluppo della cultura meridionale o del Piemonte meridionale, dell'Italia meridionale o del Piemonte meridionale. Ecco, mi pare che pur nella completa diversità delle situazioni, mi pare che dal combinato disposto, relazione di Maddalena e relazione di Berninelli, sia venuto fuori una cosa abbastanza. Sì, cioè questi investimenti fatti da commercianti, imprenditori, finanziari, eccetera, milanesi, non hanno poi provocato nella seconda metà del 600 uno sviluppo qualitativo dell'agricoltura quale si sarebbe potuto sperare da un investimento di tipo imprenditoriale così come c'era stato scritto dalla Beh, io desideravo innanzitutto ringraziare il professor Daninelli che finalmente dopo parecchi decenni abbiamo utilizzato il banco del Teresiano. È quasi un rimprovero, perché no, decenni... No, ma è giusto. Si sa chi lavora nei catasti o negli estimi sa quale lavoro dell'arte faticoso come si sia. E una notizia che mi ha colto di sorpresa è stata, come del resto appunto sorpresa anche il collega di Torini, è stata la bassa presenza nobiliare nella proprietà delle terre, sia pure nell'alta e nella media. Io qui ho un rapporto immediato perché sono diciamo, dati già elaborati da Beltrami, 10-15 anni fa. Noi per il Veneto abbiamo il raffronto sicuro del catastico del 1743-45, se non vado errato. Ebbene, da questi dati osserviamo una presenza della proprietà veneziana, solamente veneziana, pari al 20% delle terre, cioè la proprietà milanese sarebbe stata al di sotto, la proprietà nobiliare milanese sarebbe stata al di sotto di quella veneziana, in rivaglio del raffronto con quello medico. È vero che la penetrazione dei veneziani scema mano a mano che noi ci avviciniamo verso Oriente, però cresce il peso della nobiltà locale. Qui abbiamo dei dati che ultimamente sia io che il collega Morelli abbiamo elaborato, ad esempio per Verona, la nobiltà non controlla meno di un terzo delle terre. E insomma, il rilievo che può essere fatto, io lo pensavo in questo momento, effettivamente se noi diamo un ruolo a questa proprietà borghese, evidentemente essa è la classe che porta avanti il processo di sviluppo economico, poi, no? Cioè questa presenza nobiliare, questa presenza borghese, questa presenza di nuove forze, evidentemente ha suscitato, ha smosso le acque, ha suscitato energie nel corso del 7-800, venendo a maturazione proprio della seconda metà del progetto, arriviamo anche all'età giolittiana, se vogliamo. E in secondo luogo, un'altra domanda specifica che vorrei fare le cattive condizioni dei contadini. Beh, qui bisognerebbe vedere che effettivamente, come vivono i contadini anche nella bassa, penso che la tragicità delle condizioni contadine e la dieta estremamente carente, insomma, si possa verificare anche nella bassa. Direi che proprio nell'alta pianura si gioca anche nel Veneto, oltre che in Lombardia, inizia il processo di economico, perché non a caso l'industrializzazione avviene nelle vallate. C'era l'acqua, ma c'era soprattutto una grande disponibilità di braccia, insomma, qui effettivamente ne parla anche Sarpieri, no? Quando dice che i coloni in fondo trovano l'integrazione attraverso le favole, attraverso le filande, e quindi riallaccio a quanto ha detto anche Piccolini, la seta è un fattore strategico determinante, perché la seta vuole di domanda europea. E al professor De Maddalena, io vado in ordine, ho cominciato con lo so Daninelli, lo so che ha fretta, De Maddalena, vorrei fare questa osservazione che riguarda il contrabbando. Anni fa ho sviluppato un tema su Desenzano, che era un grosso centro granario, un grosso mercato, e ricordo, ultimamente l'ho ripreso con le relazioni venete che stanno uscendo, insomma, di produzione alle relazioni di Garda, del Garda, di Salotto, Meschina, e ricordo sempre che le menzioni che fanno i direttori circa il tema del contrabbando. Per tornare a Desenzano, effettivamente circa la metà del grano di Desenzano affluiva da milanese, poi dal Mantovano, che dagli inizi di parte del Settecento insomma viene aggregato allo Stato di Milano, no? Perciò ha un grande ruolo. E qui c'è una relazione Giamula, il quale dice, beh, di fondo Desenzano c'è un rettore veneto, Giamula, in fondo dice Desenzano vive totalmente nel contrabbando. Qui dice si sa che chi effettua questo genere di vita è gente che non è accasata, mentre qua a Desenzano tutto il popolo, anche le persone onorate, vivono nel contrabbando, e c'è il discorso sull'olio, il discorso sui grani, allora tutte le stoppe che appunto derivavano soprattutto dal milanese. Adesso il professor Capra, sì. Potrei chiedere una mozione dopo, siccome anch'io dovrei fare delle domande a Zaninelli e nel pomeriggio non c'è più. Non andiamo se a pranzo. No, se potessimo concentrare adesso le domande su Zaninelli in modo da... Scusa. domande al professor Zaninelli, appunto. Una riguarda la proprietà ecclesiastica, che risulta, mi pare, bassissima, quasi inesistente, del 2%. Però non ho capito bene, mi pareva di aver sentito che poi fuori da questo c'era tutta una proprietà di ordini religiosi, monasteri e così via. Allora chiedo che cosa si intende per proprietà ecclesiastica. Ecco, poi volevo chiedere se in questa spoglio che è stato fatto è stata rilevata in questa fascia la presenza di livelli e in questo caso come è stata intestata la partita, cioè al livellario oppure al direttario o è stato scelto un criterio per distinguere in ogni caso certo. Chi è il vero proprietario e chi è il capo della terra. Volevo fare questa domanda. Certo. Perfetto. Quando parla di nobiltà, no? Vorrei sapere un momento, ad esempio, i patriziati, come sono classificati, cioè cosa vuol dire nome? Vuol dire che hai il titolo è classificato come dono o cosa? Il professor Zaninelli ha connesso, ha collegato giustamente, mi pare, per l'area dell'Occidente dell'Alta lo spettentamento fondiario con l'affermarsi del contratto di affitto misto. Però mi chiedo, anche per alcuni così, insomma, alcuni piccoli ricerchi che ho fatto, mi chiedo come si possa spiegare, no, la persistenza della mezzadriga nell'area ad oriente dell'area, dove certamente in alcune zone ci sono condizioni molto diverse proprio dal punto di vista del regime fondiario che potrebbero spiegare la persistenza della mezzadriga, ma dove anche esistono delle altre zone, soprattutto le zone bergamasche, per esempio le parti bresciane e cremasche, dove in effetti si assiste allo stesso processo e dove in effetti invece non si realizza il passaggio tra le comunità. E tenendo presente anche proprio quell'inchiesta che lei ha citato, no, dagli atti di questa inchiesta risulta che per esempio la giustificazione governativa viene data per la persistenza, per la rinuncia o la persistenza della mezzadria sta nella cosiddetta moralità dei contadini. Cioè, in sostanza, nella parte occidentale si sostiene che l'affitto misto è il contratto più sicuro perché è quello che permette di imporre, quindi è in linea. Però allo stesso tempo si dice, no, che a oriente dell'Adda la persistenza della mezzadria è collegata sempre allo stesso fatto. Allora, professor De Maddalena, due domande in un certo senso si inseriscono, si conglobano con le domande di Capra e di Mozzarella. Di Mozzarella, ecco. E si collegano con questo. Cioè, in modo particolare io chiedo questo. È la definizione di nobile. E quindi se mi ricollego con quanto ha detto Titolini. Se è stata distinta la posizione di patrizio dalla posizione di nobile d'antica data. E che cosa ancora, io non l'ho ben avvertito, la faute a moi, è che cosa tu intendi per comunità o per beni comunitari, comunali. Perché, non so, non ho lavorato sul catasto teresiano, ma mi sembra enorme la percentuale, soprattutto nell'ambito della grande proprietà, se ho capito bene, di questi beni comunali. Ah, ecco, immaginavo fossero questi. Perché certamente nell'irriguo una situazione di questo genere non si trova, penso, dalla parte di... Ah, ecco, e allora la risposta è già quasi data. Ultima considerazione è questo. Ho in lavorazione con una mia allieva l'elaborazione di tutti i dati del catasto di Carlo V per Vigevano. È uno dei pochissimi frammenti del catasto di Carlo V che si è salvato. perché si è salvato, la copia che ne esisteva a Vigevano si è salvata. Ora è una registrazione minuziosissima e preziosissima, a mio modo di vedere, di tutta la distribuzione della proprietà fondiaria e della redditività dei fondi, redditività direi di tipo economico più di tipo agronomico dei fondi, per il 1550-51, è di Carlo V, ma in realtà poi l'elaborazione è appena successiva. Ora, è estremamente significativo questo catasto, perché oltre a indicare le varie classi di ambienze, di ricetto, pone anche in tutto rilievo la professionalità dei proprietari. Ora, i nobili nel distretto di Vigevano rappresentano soltanto i proprietari, rappresentano non più del 5% delle proprietà, già nel 1550. Gli ecclesiastici, e qui in senso lato, ed ecco altra domanda che si inserisce appunto in quella di Capri, cosa, o di Edalli, Masseroli, insomma, Mozzaretti, che cosa intendi tu per proprietà ecclesiastica? Qui io la intendo proprio nel senso più ampio del termine, proprietà di monasteri, proprietà di enti, anche parareligiosi se vogliamo, ecco, enti parareligiosi, che rappresenta il 22-23%. Il resto, cioè ben al di là del 70%, 73-74%, è tutta di proprietà di cittadini di Vigevano, sarti, calzolai, falegnani, artigiani, tutti piccoli artigiani, i quali avevano le loro 5, quindi tra l'altro uno spezzettamento, un frazionamento minutissimo nel distretto di Vigevano. Ora questo, scusa, non so se tu lo puoi, il catasto di Maria Teresa riconferma una situazione di questo genere? Adesso, non so, te la chiedo, questo non è che tu mi possa dare risposta oggi, evidentemente, certo, ma ti pongo il problema, perché potrebbe essere un confronto a distanza di due secoli estremamente significativo, perché è tutto il distretto di Vigevano. Grazie. Una domanda di Schira, piccolissima, è quella che faccio sempre perché è l'unica che so fare. Ecco, mi chiedo questo, se in che misura nell'evoluzione dell'ambiente, soprattutto nell'evoluzione del rapporto tra attività manifatturiera e attività agricole, insomma, tra integrativo e invece eccetera, si possa individuare anche un ruolo, diciamo così, del potere politico, con interventi così, di tipo fiscale, per esempio, oppure di tipo, per esempio, ordinamentale, di ordinanze che regolano un settore piuttosto che l'altro. Per quel che riguarda altre situazioni è evidente che sicuramente questo è un elemento estremamente pesante. Di quanto mi pongo? Di 25 minuti. Va bene, io chiedo scusa se non risponderò, c'è l'impegno a dare una risposta a volume pubblicato, insomma. No, vi ringrazio di tutte le domande perché mi consentono a ritornare su alcune questioni di metodo che ho dovuto affrontare impostando il lavoro e che adesso si ripresentano. Ecco, vi dirò subito una cosa che non vi deve sembrare strana. Io ho cercato di impostare questo lavoro di utilizzo dei dati catastali, tanto per dire, per dare una dimensione, insomma, questo ha voluto dire lavorare su 84.000 84.000 schede di intestazione, diciamo. Per parcella o per proprietà? No, ecco, questo qui viene il punto. Cioè, io ho impostato le cose in modo che fossero possibili tutte le disaggregazioni e le aggregazioni che un successivo lavoro di approfondimento avrebbe ulteriormente chiarito. Faccio un caso classico sul quale, sono stato sconfitto dai fatti, insomma. Io ero partito con un'ambizione, insomma, l'ambizione cioè di indicare esattamente i proprietari, il numero dei proprietari e l'esistenza, la consistenza della proprietà fondiaria in testa a ciascuno di essi. un piccolo dato tecnico: il catasto teresiano rileva le partite catastali comunità per comunità. L'unica vittoria del possesso fondiario milanese nei confronti di Vienna è stato questo, di impedire la creazione, difatti c'è tutto un carteggio su questo punto qui, la proprietà fondiaria impedisce la formazione dell'elenco dei proprietari. Scusate, io ho notizia di questo fu fatto dal Carli. No, il Carli ha tentato e io ho ritrovato alcuni tentativi commessi, diciamo così, all'amministrazione, la quale aveva predisposto i registri, e io ho visto questi registri, e ho visto anche la ricostruzione per alcuni grandi proprietari di quello che doveva essere l'operazione generale. Cioè l'operazione generale doveva consistere nell'avere l'elenco dei contribuenti, ponendo in testa a ciascuno di essi quello che possedevano nelle diverse comunità. Ecco, no, questo non esiste, questo è sicuro che non esiste, perché anche sicuro, perfetto, è sicuro per quel tanto che il lavoro fatto a Milano e fatto a Vienna mi porta a questa conclusione. Non si esclude mai niente, però devo dire che non mi meraviglia neanche, cioè perché questo era il punto decisivo, era fin troppo evidente che si sarebbe riusciti in questo modo ad avere l'effettivo potere, no, di ciascuno, soprattutto delle grandi famiglie. E tutta una serie di lamentele poi che si trovano dopo il 60 in fatto di applicazione dell'imposta, secondo me confermano che non sono riusciti a raggiungere. Ora, io sono stato sconfitto perché in partenza avevo impostato tutto in modo da costruire il registro dei proprietari. Il registro dei proprietari perché non è ricostruibile? Non perché le partite catastali non siano tutte intestate, ma perché le omonimie mi fregano su. Cioè io quando mi trovo di fronte a 35 Brambilla, io non so se Brambilla Luigi era lo stesso o sono diversi, e non ho modo di ricostruirlo, perché nel sommarione l'intestatario della partita catastale in genere non ha altro elemento se non il nome e il cognome, non aggiunge la contrada, non aggiunge la residenza, se non si vede che, cioè, le disposizioni erano di indicare anche la residenza. In effetti la residenza non risulta, la mancanza dell'indicazione della residenza rende impossibile individuare. Allora che cosa ho fatto? Ecco, già un punto, come dire, di adattamento della ricerca. Ho dovuto procedere in base alle partite, quindi io ragiono sempre in termini di partite. Cioè quando dico la nobiltà, il clero, e gli altri, eccetera, eccetera, indico, cioè ricorro ad una finzione, perché in buona sostanza quelle che io ho sono l'insieme delle partite catastali attribuite ad un soggetto che io ho messo dentro o classificato in un certo modo. Mi riprometto una cosa, questa possibile, siccome ho, attraverso il calcolatore, sono riuscito a togliere dalla massa degli 84.000 partite e quelle di maggior classificabili nelle classi di maggiore ampiezza, io spero di riuscire, ma per un certo numero di persone, a ricostruire la loro proprietà, come campionatura, voglio dire, i nomi famosi, insomma, delle grandi famiglie, o anche non delle grandi famiglie, ecco, ma anche dell'Ospedale Maggiore di Milano, per esempio, che quello non dà luogo ad equivoci, perché quando c'è scritto Ospedale Maggiore di Milano è chiaro chi è il proprietario, non ci sono omonimie, ecco lì mi propongo di creare delle schede sulle quali riportare tutte le partite ed avere finalmente la complessa proprietà. Prego. Scusa, voglio chiedere una precisazione che proprio è in tono a quello che tu dici. Tu dici trovi 35 Brambilla Luigi. Tra questi 35 Brambilla Luigi ci può essere il Brambilla di Civesio che è nobile. Lo sai? Dunque, adesso qui questo è il primo punto. Tra questi 35 Brambilla ci possono essere borghesi o nobili o non nobili. Certamente. Siccome tu fai per... Certamente. Dunque, ecco, veniamo allora al secondo punto. Chiarita la prima questione che mi ha terrorizzato, lo confesso, perché... Per alcuni tipi di rilevazione non c'erano difficoltà sulle classi di ampiezza, non nascono problemi. Sulle culture, semmai è un problema di aggregazione maggiore o minore, con qualche problema, insomma. Il problema più grosso era indubbiamente questo. Allora, io come ho proceduto? Anche qui è tutto provvisorio quello che vi dico, perché la riflessione sui dati, l'approfondimento dei dati stessi, tra l'altro incrociandoli si notano, si vedono, c'è la possibilità di fare alcune verifiche, le stiamo già facendo, io ho tenuto tutto molto disaggregato, per cui posso rimettere insieme. No, non ho potuto alcune, adesso vediamo a proposito della nobiltà e del patriziato, alcune cose non ho potuto fare. Ecco, io, per quel che riguarda il problema più delicato, classificazione del soggetto, meglio, classificazione del soggetto in testa il quale c'è la partita, in testa il quale c'è la partita, ecco, io ho avuto alcune cose chiare, altre meno chiare, con quella riserva poi di te. Cioè, per esempio, ho definito ecclesiastico la proprietà della parrocchia, e tutto il tipo di proprietà che ha chiaramente un uso religioso. Cioè, voglio dire, per esempio, il fatto di aver attribuito una proprietà per un legato o in qualche altra forma, in modo da sostenere le spese per le messe, per certi altri impieghi, diciamo, che hanno finalità religiosa, quello mi ha permesso di individuare un primo tipo di soggetto proprietario. Ho tenuto disaggregato, come dire, vi chiedo scusa perché bisogna essere precisi, ecco, i grandi ordini religiosi, le confraternite, le abbazie, i seminari e le messe vescovili, perché qui ho individuato, e i dati poi mi hanno dato ragione, che qui sono in presenza di un tipo di proprietà che aveva certamente un'origine che formalmente è ecclesiastica, ma poi nel suo uso è in pratica una proprietà. Cioè, sono ancora molto in dubbio su questo punto qui, perché per esempio il seminario o l'abbazia che ha grandi proprietà, questo in che cosa si differenzia da un proprietario nobile da un punto di vista economico, in punto di vista di gestione? C'è un cumulo di dubbi, però ho una grande riserva finale che io posso, queste cose tenerle, ho tenute distinte, posso quindi metterle insieme o lasciarle distinte. Quindi, procedendo in questo modo, chiarito che cos'era indubbiamente ecclesiastico, ma lasciando anche delle sottocategorie, però per vostra tranquillità vi dirò, per esempio, che... Cosa significano queste? Ecco, se le aggiungessimo non superano il 7%. Ah, ecco, questo è importante. Sì, certo, per questo mi sono permesso di dire. Quindi vogliamo fare, diciamo, tra il 2 e il 7, mettiamo insieme tutto, arriviamo all'8 o al 9%. Quindi siamo su valori, nell'area asciutta, molto bassi. Indubbiamente più bassi di quelli che evidenziati dal pugliese. Molto più bassi. Quindi aggregando tutto, se volessi aggregare tutto, considerando proprietà ecclesiastica, quella che va dalla parrocchia e tutte le forme di proprietà ad uso esplicitamente religioso, fino a proprietà di soggetti che formalmente sono religiosi, le abbazie, i seminari, le mense, eccetera, eccetera, io non supero certamente i 10 punti. Mai per l'area asciutta, io sto parlando per le tre aree di collina, neanche per la fascia di piano, solo la collina, l'ho detto perché ho tutti i dati, ma su questo ho cominciato a riflettere, quindi non voglio fare confusione, e dopo nasceranno semmai le confusioni successivamente. Primo punto, ecco, proprietà nobiliare. Per la proprietà nobiliare che cosa fa? Non ho potuto tenere distinto la nobiltà dal patriziato. Ho usato largamente per cercare di evitare, ho messo insieme nobiltà e patriziato, ho tenuto separati i don. Anche qui con possibilità di metterli insieme o di non metterli insieme. Ho usato e intendo usare largamente gli elenchi che esistono, insomma, no? Facendo tutti i confronti, anche qui il calcolatore, ho dato un numero a ciascuno di essi, quindi il calcolatore mi aiuterà nel vedere, insomma, se non ci sono le concordanze. Prego. No, domandatemi tutto, perché tanto è un aiuto fondamentale. I decurioni quindi risultano tra i nobili. Certamente. Fa vedere. Certamente. Ecco, sono riuscito a tenere distinti quelli che, non risultando negli elenchi, per esempio avevano questo appellativo, e se non ho capito male, ma ho creato la categoria di quelli che hanno professioni per le quali potevano essere chiamati don, non so, per esempio i fiscali, gli avvocati, giureconsulti, ecco, questi sono una categoria che è a sé, cioè disaggregata nei calcoli e che può essere riaggregata se decidessi. Prego. Gli elenchi della nobiltà milanese sono molti. Sì, difatti, e ho usato questi, però con delle perplessità, insomma, con dei dubbi. Si è basato molto sulla rete. Io mi sono utilizzato molto la rete, per esempio. Ecco, quindi ci sono tutta una serie di aiuti e di sostegni per definire. E poi ho definito non nobili, non altri, tutti quelli che in qualche modo stavano fuori, chiaramente, da queste due categorie. Le cose che mi dite adesso da competenti, siccome grazie al cielo non ho ancora messo niente per iscritto, mi faranno riflettere ulteriormente intorno a questo punto qui, cioè prima di sottopormi allo sbranamento generale, insomma, su, siccome non è detto che uno debba farsi sbranare, su questo punto qui può anche dire non che... Non cambi le parole. Ma siccome questo è il costume nostro, come dire, quando non si sa niente, non si sa niente, se qualcuno dice qualche cosa, bisogna distruggere, non si sa niente, per dire che ha sbagliato tutto, insomma, o quasi. Ecco, io allora... ho già dei dubbi fortissimi su questo punto e quindi cercherò di procedere. Per i vostri dubbi, per i... Sì, scusa. L'ultima volta, che suggerirò? No. Non si vede, insomma. Ecco. Non si vede. Cioè, potrei per altri eventi... Magnifico. Ecco, su qualche dubbio che è venuto sulle percentuali, io per questa zona qui adesso guardavo per esempio le mie ricostruzioni per la corte di Monza, fatte in un modo forse un po' più grossolano, però confermano, insomma, io qui una tabella sempre del 30, sì, del decennio, fino al decennio 20, e gli altri hanno forse non così elevati, insomma, però la corte di Monza, dire la verità, comprende la città, quindi è un po' falsata la cosa, ecco, rispetto alla generalità dell'ambiente di collina media, bassa, alta, che ho preso. D'altra parte, tra l'altro, la corte di Monza si inserisce nell'altopiano, non nella collina, quindi bisognerebbe vedere i dati relativi all'altopiano e non relativi alla collina. Purtroppo, sul quesito fondamentale che ha posto Chitorini, c'è una possibilità di cogliere l'evoluzione? Io sono curioso di vedere adesso, ma forse Vigevano fa eccezione, il catasto di Carlo Pinto non è confrontabile, insomma, con questo. Dato? Quasi. No, per quel che c'è, insomma, anche Coppola ha tentato di mettere insieme qualche cosa. Su questo di Vigevano sta lavorando anche Bianchi, per la parte teresiana, no? Va bene, allora. Potremmo tentare di insomma, io ho dei dubbi sulla attendibilità, i criteri tecnici sono veramente diversi, notevolmente diversi. Quindi io direi che a questo quesito fondamentalissimo io non darei una risposta, certamente non la darei usando il materiale catastale. Bisognerebbe ricorrere ad altri parametri, ad altri, perché questo, in fondo, noi siamo disgraziati al punto che nessuna rilevazione catastale è confrontabile, perché anche il catasto poi unitario di Mesedaglia non è confrontabile neppure questo, insomma, anche nel lunghissimo periodo non possiamo procedere facendo quello che sarebbe formidabile, insomma, no. Forse con grandi raggruppamenti, tentando delle grandi aggregazioni, qualche idea potremmo avere. Ecco, vediamo un momentino. Ecco, sull'importanza dei contratti agrari, anche qui io vedo chiaramente che diviene strangolante, per usare la sua espressione, da un certo momento in avanti. Cioè dal 700 in avanti non c'è dubbio che si afferma questa linea di prevalenza per il contratto misto, che il contratto misto è ritenuto nell'area asciutta lo strumento principe per realizzare, per indurre il colono a certi tipi di cultura, a certi sfruttamenti del suolo. Quello che c'era prima, rispondeva anche ad altre logiche, secondo me, cioè non c'è questa pressione del mercato, non c'è questa pressione della domanda. In fondo il proprietario si accontenta di una rendita stabile che gli è garantita dal rapporto col massaro. È dopo che nasce la prospettiva di aumentare la rendita e quindi di introdurre. Io più in là di così, sinceramente, non andrei. Ecco, Doria ha fatto un'osservazione sulla quale io ho qualche dubbio, anzi, diciamo che non ho dubbi. Quando dice, ma il contratto di se ho capito bene, il contratto di colonia è un contratto, il contratto misto, pardon, è un contratto arretrato. Io ho questa opinione in fatto di contratti agrari, che non ci sono contratti arretrati, no, contratti progressivi. Ecco, che i contratti sono sempre quelli che... Rispondono a una situazione più arretrata rispetto a quella No, non so, è di questo che non sono sicuro, perché il contratto agrario, precisiamo, non in regime di parità delle parti, quindi in regime sostanzialmente contrattuale, cioè di due parti che possono giocare, ma in regime solo formalmente contrattuale, ma sostanzialmente di decisione univoca, perché qui è la proprietà che decide, non esiste un'altra parte, no? Quindi non c'è bilateralità, non c'è bilateralità. Quindi in regime di non bilateralità, quindi fin quando il mondo contadino non si organizza, secondo me, seconda metà di 800 e prima metà del 900, di tutto il periodo precedente, in questa prospettiva qui, la proprietà che cosa fa? Realizza nel lungo periodo il tipo di rapporto formalmente, il tipo di imposizione sostanzialmente, che ritiene più conveniente i suoi interessi. Quindi non è né più arretrato né meno arretrato, è semplicemente quello che rispetto alle sue istanze, al suo modo di intendere la rendita e quello che la terra gli deve dare, la terra stessa può dare in funzione di quello. Che è un modo forse un po' rigido per vedere le cose, però io nel lungo periodo faccio fatica a vedere altre logiche, perché il mondo contadino non conta niente. Il mondo contadino ha solo delle capacità fisiche. No, ma anche tecnicamente, il contratto misto in fondo che cosa introduce rispetto al contratto precedente, al rapporto precedente? Il rapporto precedente vede il massaro sfruttare la grande unità di proprietà e la grande unità poderale, la vede sfruttare in funzione della sua sopravvivenza, quindi della sua alimentazione, più la rendita che deve passare al proprietario in termini di prodotto fisico che deve versargli. Va bene? Il passo successivo che cos'è? Il passo successivo è instabilità di tecniche, instabilità di rendimenti unitari, è un contratto che consente al proprietario di ottenere una varietà di prodotti e soprattutto per uno di questi, o per due di questi, grano e bacco e bozzola, un quantitativo maggiore. Basta, non c'è altro, perché le tecniche restano quelle di prima. Diciamo dal momento in cui la rotazione grano-grano turco oramai è definita, in cui nel seminativo c'è anche il gelso e quindi c'è l'allevamento, da questo momento rispetto al contratto di prima, il contratto successivo è un contratto più elastico, che permette delle manovre. Lei mi insegna che il contratto di mezzadria di manovre non ne consente, se è mezzadria pura, perché qua la metà è sempre la metà, cioè c'è poco da giocare, se tu mi devi la metà, mi devi la metà, vada bene o vada male, tu, no, se non ci sono altri marchingegni che permettono di recuperare di più da parte del proprietario. Mentre invece questo contratto, secondo me questo contratto invece è più moderno rispetto ad un'economia di mercato, perché rispetto ad una necessità di collocare sul mercato il prodotto permette a chi gestisce questo sovrappiù di ottenerlo e di collocarlo sul mercato. Il proprietario precedente era interessato a queste cose, questo lo dovete dire voi, in 500 e in 600, cosa ne faceva il proprietario del prodotto? Lo collocava sul mercato. In parte, lo vendeva, cosa ne faceva? Questo è un discorso che io non conosco perché non appartiene alla mia area di riflessione, di indagine. Però quello che è certo è che il proprietario in seconda metà del Settecento vuol collocare perché c'è un mercato che funziona, insomma, un mercato che chiede. E allora crea un rapporto che lui lo crea, che permette questo. Il problema della frode, io non lo so. Ah, beh, il problema della frode. Quale dei due tipi di contratto è il discorso di Moioli, questo. Ecco, di essere, diciamo così, utilizzato dal contadino. Secondo me la mezzadria lo consente molto di più la frode. Che allora l'intervento. Sicuro, c'è anche questo. Allora permettetemi di aggiungere altri particolari. Per esempio, il contratto misto è formidabile dal punto di vista dell'impedire o quasi la frode. Perché il proprietario fa questo ragionamento. Il grano tutto te lo mangi tu e non lo vuole nessuno, te lo tieni perché fai la polenta. Il grano te lo compro io perché sono l'unico in grado di portarlo sul mercato. Tu non puoi portare niente sul mercato perché tutti capiscono che se lo porti sul mercato vuol dire che l'hai fregato a me. Perché tu come tale di grano non ne devi tenere. Quindi se lo vendi vuol dire che me l'avrai sottratto, di nascosto, di notte, non lo so. Vabbè, uno la foglia non la vende, insomma, il singolo qua. E come si dice, il bozzolo. Anche lì il bozzolo, perché non lo vende? Perché deve entrare nel conto colonico. È chiaro che se io proprietario, so che tu sei sempre colono in deficit di bilancio, perché tre mesi prima della semina hai mangiato tutto, io ti devo anticipare la semina, te la metto in conto. Come fai a saldare la differenza? Tu la saldi con la tua metà di bozzolo, perché al momento finale dividiamo il bozzolo a metà, metà a me proprietario, metà a te. Poi la tua metà te la comprerò io, perché tu non la metti sul mercato. Non la metti sul mercato perché non ti conviene collocare piccoli quantitativi, ti conviene vendere. E soprattutto non la vendi sul mercato perché tu la devi vendere a me, perché ti va a compenso del tuo deficit. E siccome il deficit è permanente, perché il proprietario fa di tutto perché il deficit sia permanente, questo è il punto. Gioca anche da questo punto di vista qui. Tu sei sempre debitore verso di me, quindi sei interessato ad aumentare il più possibile la quantità che mi serve per, che ti serve per appianare il bilancio. Quindi la frode in questo secondo rapporto è certamente meno che la prima. Questo significa una torchiatura maggiore. Questo significa una torchiatura maggiore. Dal punto di vista sociale, insomma. Dal punto di vista sociale ed economico anche, perché è il meccanismo che induce allo sfruttamento maggiore, all'intensificazione. Cioè sì, questo è un sistema, Romani questa cosa l'ha definita molto bene, questo è un sistema che dà tutto quello che può dare, che dà tutto quello che può dare, al di sotto del quale, come dire, c'è la fame. Sotto non si può andare perché c'è la fame. La fame contadina non può, si riduce, come dire, a un lavorare meno, a un produrre meno, quindi non mi conviene, no? I balconi, perché quelli miei catei hanno, no? Di proprietà, qui c'ha delle pagine di una crudezza su queste cose qui che sono esemplari. Il contadino è contento di questo e resta legato al proprietario. Forse che piccola pagina, piccola, forse che i moralisti del tempo, i parroci, non suggeriscono al buon proprietario in punto di morte di fare che cosa? Di abbonare i debiti. L'azione migliore che puoi fare è abbonare i debiti. Qualcuno dice, vai piano, perché se abbono i debiti dopo quello se ne va. Perché è chiaro, no? Perché il debito era quella cosa che mi teneva legato, non l'affetto. Il debito, quindi abboniamo i debiti, vedete di essere in certi momenti meno tirati, perché se siete troppo tirati vi riducete alla fame, insomma. Quindi ecco, è il contratto, come dire, che obbliga al massimo di rendimento dato una certa struttura che non viene modificata, e secondo me quello che impedisce la modificazione è la densità di popolazione. La densità di popolazione, cioè io non posso cambiare niente perché la gente è qui. Ripeto, non a caso sarà il decennio giolittiano, quello della prima industrializzazione, che vede la gente andare massicciamente in Finlandia o andare negli stabilimenti metalmeccanici, siderurgici dell'area milanese, attratti, che abbandonano la campagna, lo squilibrio, come dire, diminuisce, c'è più di... Esatto, la forza contrattuale cambia, il contratto salta, il contratto. Solo tra il 1906-7 e il 1914 questo avviene, e poi massicciamente tra il 1918 e il 1922. Romani ha messo in luce un'altra cosa interessantissima, che col fascismo i proprietari dell'Alto Milanese pensano di ritornare al contratto medio. Non ci riescono perché non c'è più la manodopera disponibile. Ma avrebbero voluto ritornare al contratto 6-7-800 come il contratto migliore, perché avevano dovuto passare al contratto invece d'affitto, e d'affitto in danaro, tra l'altro, neanche più d'affitto in questa zona. Io sto parlando sempre dell'area asciutta di pianura e in modo particolare di Colline. Al di là del Biloresi, perfetto, al di là del Biloresi, dopo che esiste un Biloresi. Dunque, adesso cosa devo dire ancora? Dunque, ecco, ha ragione, ma è importantissimo. Ecco, io ho citato i dati relativi alla piena proprietà, no? Ho tenuto distinto, e quindi darò i dati relativi alle due posizioni, quindi di chi ha il godimento completo e di chi ha invece il godimento limitato dal livello. E quindi ho tenuto separate le tre partite, proprietà piena, livellario e livellante. Allo stato attuale non azzardo è l'ultima fase questa, i tabulati non li ho ancora, che mi danno le tre situazioni distinte. Però è evidente che qui questo è il punto di riferimento della piena proprietà, che è il punto di riferimento per queste zone qui poi particolarmente interessante. Ecco. Certo, varrebbe la pena, ma ripeto, questa è una mia, no, non è neanche una mia, insomma, debolezza, o al momento non ho questi dati mi arriveranno e quindi li metterò dentro certamente nella ricerca. Mamma mia, cosa che devo dire ancora? Sì. Anche perché l'ora si sta. Già superato? No, sì, sì. Sì, me lo dai ancora. Ma forse. Ho risposto a tutti? Ah no, sì, ecco, questa è una cosa che ci tenevo a dire. No, perché la domanda. E lo devo al professor De Maddalena, perché lui era convinto questo discorso delle regalie. Ah. Ecco, e qui c'è una questione. Una questione che secondo me è importante e che è tutta ancora da studiare, insomma. Forse, io dico forse per cautela, insomma, l'intervento riformatore, ma qui siamo in seconda metà di Settecento però, l'intervento riformatore più significativo ancora del catasto potrebbe rivelarsi quello del riordino dei tributi indiretti e di, come dire, sistemazione del debito pubblico. Anche qui, io, senza nessuna affettazione, credo che dobbiamo essere debitori romani dell'intenzione, quando in quel lavoro su Pallavicini c'ha tre righe, cioè, che cosa succede? E io per le regalie adesso l'ho quantificato, sperando di non prendere cantonate, perché sennò eccetera eccetera. Attraverso il recupero delle regalie, cioè dei cespiti che in tre secoli la nobiltà, in modo particolare, aveva acquistato o ricevuto dallo Stato in gestione di tributi indiretti, feudali, non feudali, attraverso il ritorno alla mano pubblica, circa 30 milioni nel giro di 12-15 anni tornano alla mano privata. Romani dice, che cosa accade di questo? Questi capitali dove sono andati? Investimenti in nuovi titoli del debito pubblico o in titoli di banche, eccetera, eccetera? Non lo so, perché nel Monte di Santa Teresa non è sicuro. Perché il Monte di Santa Teresa c'ha il suo, come dire, c'ha i suoi creditori già consolidati, questi creditori ci sono proprio per recuperare le regalie. Ma da quel che si vede, solo quelli tenuti, cioè solo i possessori di regalie feudali, erano tenuti a rimettere il rimborso in cartelle del Monte di Santa Teresa, tutti gli altri prendono denaro liquido. Cosa ne fanno? E il Verri, che ha due righe, per un solo di questi milioni dice la liquidità è aumentata. Quindi l'aumento di liquidità, cioè per un solo milione, è verificabile. Ma ci vuole molto a capire che se il milione da uno diventa 20 o 25, già il problema si crea. Dove è finito questo flusso di denaro? Qui c'è un effetto importante della politica riformatrice, cioè in quanto sottrae certe convenienze di investimento, te le sottrae in forza, tu non gestisci più le imposte, le gestisco io, ti rimborso naturalmente. In questo caso però torna a disponibilità del privato, dell'operatore economico privato, torna la disponibilità di una massa di denaro. Cos'era questa massa di denaro sul tettare? Che questo è un punto importantissimo. Cosa rappresentava? Secondo me rappresentava una cifra non da buttare via, insomma. Tra l'altro che tornava, non si disperdeva in tante mani, ma tornava in poche precise mani di quegli stessi operatori che in altri momenti avevano avuto la convenienza. 60 famiglie, vuol dire. Perfetto. Quindi tornano nelle mani di pochi che non hanno bisogno di farsi spiegare col manuale come si prende i soldi. Hanno una pratica e i canali per... Ecco, questo è tutto da accertare. Però resta il punto precisissimo che c'è questo spostamento, insomma. La letteratura ha un altro punto di riferimento, cioè la letteratura dice tra le riforme, è il noto giudizio, no? Tra le riforme la più importante è quella catastale perché premia il proprietario che avendo fissato la rendita ad un certo momento, tutto quello che crea in su gli resta in tasca, tutto quello che ottenesse in meno gli resta l'anno su, insomma. Che è vero, certamente. Però secondo me opera nel lunghissimo periodo, cioè. La differenza è che altre cose operano invece nel breve, nel medio periodo. Questo ci vuole almeno, ci vogliono così quel mezzo secolo, perché forse un po' meno, almeno 3-4 decenni, perché il proprietario comincia a realizzare e modificare il suo comportamento. E difatti queste cose le verifica Bellatti, le verifichiamo col periodo francese, le verifichiamo in prima metà dell'Ottocento. No, non certamente prima. Qui invece c'è un effetto umiliata. E questo secondo me era anche il tuo appello a vedere, questo va studiato, perché noi continuiamo a muoversi su queste cose qui, che certo riportano sempre all'agricoltura, riportano all'agricoltura perché questo investimento in manifatture non va. Per il momento non è ancora. In che cosa va? Secondo me va in investimenti fondiari, va in attività ancora di potenziamento dell'agricoltura, in acquisto di terra, è tutto da verificare. Però è un momentino importante, insomma. Tanto più poiché si sposa a non molta distanza di tempo con la disgregazione delle proprietà ecclesiastiche. E certamente. Ho capito. No, io ringrazio moltissimo ancora. Io non, così ti risponderò dopo alla tua... Sì, penso di sì. Tre cominciamo con la relazione sottolinea. Ecco, non vorrei che i paesetti pensassero che io vado a spasso. Oggi pomeriggio vado a fare, come che Romani diceva, una predica ai cooperatori. Lasciamo qui tutto. Lasciamo qui tutto.